sono uscito di corsa, ho bevuto alla nostra. In un bar seduto a un tavolo ho scritto il tuo nome con una matita. Ho dormito vestito sopra un divano rotto e ho guardato le stelle cadere dal piano di sopra al piano di sotto. Ne ho raccolta una, l'ho portata con me, perché fuori fa freddo e da qui non si vede nemmeno la luna. L'ho portata con me, l'ho portata con me, perché fuori fa freddo, freddissimo, freddo, freddissimo. Prima o poi, prima o poi, prima o poi tornerò col mio cuore girovago. Prima o poi, prima o poi, prima o poi tornerò. Che fatica che faccio, ogni volta che parli io mi nascondo in un posto segreto, in un posto segreto. Ho inventato una casa sul mare, l'ho inventata soltanto per noi, ma da quando tu non ci sei qui il sole non splende mai. Camminare nell'acqua la sera, ordinare qualcosa da bere e guardare le stelle cadenti cadere, raccoglierle insieme. Ne ho raccolta una, l'ho portata con me, perché fuori fa freddo, freddissimo, freddo, freddissimo. Prima o poi, prima o poi, prima o poi tornerò col mio cuore girovago. Prima o poi, prima o poi, prima o poi tornerò. Che fatica che faccio, ogni volta che parli io mi nascondo in un posto segreto dove c'è sempre vento, e ogni volta che sbatte sul muro comunque i tuoi occhi li sento dentro. Ed è un freddo stupendo, ed ogni sospiro che faccio è un pezzo di ghiaccio. Che fatica che... Prima o poi, prima o poi, prima o poi tornerò con il cuore girovago. Prima o poi, prima o poi, prima o poi tornerò. Che fatica che faccio, ogni volta che parlo io mi nascondo in un posto segreto, in un posto segreto.